Ad alta voce, Michela Cescon legge Le piccole virtù di Natalia Ginzburg. Nona puntata. Lui e io. Lui è sempre caldo, io sempre freddo. D'estate, quando è veramente caldo, non fa che lamentarsi del gran caldo che ha. Si sdegna se vedo che mi infilo la sera un golf. Lui sa parlare bene alcune lingue, io non ne parlo bene nessuna. Lui riesce a parlare, in qualche suo modo, anche le lingue che non sa. Lui ha un grande senso dell'orientamento, io nessuno. Nelle città straniere, dopo un giorno, lui si muove leggero come una farfalla. Io mi sperdo nella mia propria città. Devo chiedere indicazioni per ritornare alla mia propria casa. Lui odia chiedere indicazioni. Quando andiamo per città sconosciute in automobile, non vuole che chiediamo indicazioni, mi ordina di guardare la pianta topografica. Io non so guardare le piante topografiche, mi imbroglio su quei cerchiolini rossi e si arrabbia. Lui ama il teatro, la pittura e la musica, soprattutto la musica. Io non capisco niente di musica, mi importa molto poco della pittura e m'annoio a teatro. Amo e capisco una cosa sola al mondo, ed è la poesia. Lui ama i musei, e io ci vado con sforzo, con uno spiacevole senso di dovere e fatica. Lui ama le biblioteche, e io le odio. Lui ama i viaggi, le città straniere sconosciute, i ristoranti. Io resterei sempre a casa, non mi muoverei mai. Lo seguo tuttavia in molti viaggi. Lo seguo nei musei, nelle chiese, all'opera. Lo seguo anche ai concerti e mi addormento. Siccome conosce dei direttori d'orchestra, dei cantanti, gli piace andare dopo lo spettacolo a congratularsi con loro. Lo seguo per i lunghi corridoi che portano ai camerini dei cantanti. Lo ascolto parlare con persone vestite da cardinali e da re. Non è timido. E io sono timida. Qualche volta però l'ho visto timido. Coi poliziotti, quando si avvicinano alla nostra macchina armati di taccuino e matita. Con quelli diventa timido, sentendosi intorto. E anche non sentendosi intorto, credo che nutra rispetto per l'autorità costituita. Io l'autorità costituita la temo. E lui no. Lui ne ha rispetto, è diverso. Io se vedo un poliziotto avvicinarsi per darci la multa, penso subito che vorrà portarmi in prigione. Lui alla prigione non pensa, ma diventa per rispetto timido e gentile. Per questo, per il suo rispetto verso l'autorità costituita, ci siamo, al tempo del processo Montesi, litigati fino al delirio. A lui piacciono le tagliatelle, l'abbacchio, le ciliegie e il vino rosso. A me piace il minestrone, il pancotto, la frittata, gli erbaggi. Suole dirmi che non capisco niente nelle cose da mangiare e che sono come certi robusti frattacchioni che divorano zuppe di erba nell'ombra dei loro conventi. E lui? Lui è un raffinato dal palato sensibile. Al ristorante si informa a lungo sui vini, se ne fa portare due o tre bottiglie, le osserva e riflette, carezzandosi la barba piano piano. In Inghilterra vi sono certi ristoranti dove il cameriere usa questo piccolo cerimoniale, versare al cliente qualche dito di vino nel bicchiere, perché senta se è di suo gusto. Lui odiava questo piccolo cerimoniale e ogni volta impediva al cameriere di compierlo, togliendogli di mano la bottiglia. Io lo rimproveravo, facendogli osservare che ognuno deve essere consentito di assolvere alle proprie incombenze. Così, al cinematografo, non vuol mai che la maschera lo accompagni al posto. Gli dà subito la mancia, ma fugge in posti sempre diversi da quelli che la maschera, col lume, gli viene indicando. Al cinematografo vuole stare vicinissimo allo schermo. Se andiamo con amici e questi cercano, come la maggior parte della gente, un posto lontano dallo schermo, lui si rifugia solo in una delle prime file. Io ci vedo bene, indifferentemente, da vicino e da lontano, ma essendo con amici resto insieme a loro per gentilezza. E tuttavia soffro, perché può essere che lui, nel suo posto a due palmi dallo schermo, siccome non mi sono seduta al suo fianco, sia offeso con me. Tutte e due amiamo il cinematografo. E siamo disposti a vedere in qualsiasi momento della giornata qualsiasi specie di film. Ma lui conosce la storia del cinematografo in ogni minimo particolare. Ricorda registi e attori, anche i più antichi, da un gran tempo dimenticati e scomparsi, ed è pronto a fare chilometri per andare a cercare nelle più lontane periferie vecchissimi film del tempo del muto, dove comparirà magari per pochi secondi un attore caro alle sue più remote memorie d'infanzia. Ricordo a Londra il pomeriggio di una domenica. Davano in un lontano sobborgo sui limiti della campagna un film sulla rivoluzione francese, un film del 30, che lui aveva visto da bambino e dove appariva per qualche attimo un'attrice famosa a quel tempo. Siamo andati in macchina alla ricerca di quella lontanissima strada. Pioveva. C'era nebbia. Abbiamo vagato ore e ore per sobborghi tutti uguali, tra schiere grigie di piccole case, grondaie, lampioni e cancelli. Avevo sulle ginocchia la pianta topografica. Non riuscivo a leggerla e lui s'arrabbiava. Infine abbiamo trovato il cinematografo. Ci siamo seduti in una sala del tutto deserta. Ma dopo un quarto d'ora lui già voleva andar via. Subito dopo la breve comparsa dell'attrice che gli stava a cuore. Io invece volevo, dopo tanta strada, vedere come finiva il film. Non ricordo se sia prevalsa la sua o la mia volontà. Forse la sua. E ce ne siamo andati dopo un quarto d'ora, anche perché era tardi. E benché fossimo usciti nel pomeriggio, ormai era venuta l'ora di cena. Ma pregandolo io di raccontarmi come si concludeva la storia, non ottenevo nessuna risposta che m'appagasse. Perché lui diceva, la storia non aveva nessuna importanza e la sola cosa che contava erano quei pochi istanti, il profilo, il gesto, i riccioli di quell'attrice. Io non mi ricordo mai i nomi degli attori. E siccome sono poco fisionomista, riconosco a volte con difficoltà anche i più famosi. Questo lo irrita moltissimo. Gli chiedo che sia quello o quell'altro, suscitando il suo sdegno. Non mi dirai, dice, non mi dirai che non hai riconosciuto William Holden. Effettivamente non ho riconosciuto William Holden. E tuttavia amo anch'io il cinematografo. Ma pur andandoci da tanti anni, non ho saputo farmene una cultura. Lui se n'è fatto invece una cultura. Si è fatto una cultura di tutto quello che ha attratto la sua curiosità. E io non ho saputo farmi una cultura di nulla, nemmeno delle cose che ho più amato nella mia vita. Esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memoria e di commozione, ma senza colmare il vuoto, il deserto della mia cultura. Mi dice che manco di curiosità, ma non è vero. Provo curiosità di poche, pochissime cose, ma il mio universo, dove affiorano tali cadenze di immagini, isolate l'una dall'altra e non legate da alcuna trama se non segreta, a me stessa ignota e invisibile, è arido e malinconico. Il suo universo invece è riccamente verde, riccamente popolato e coltivato, una fertile e irrigua campagna dove sorgono boschi, pascoli, orti e villaggi. Per me ogni attività è sommamente difficile, faticosa e incerta. Sono molto pigra e ho un'assoluta necessità di oziare se voglio concludere qualcosa. Lunghe ore sdraiata sui divani. Lui non sta mai in ozio, fa sempre qualcosa. Scrive a macchina velocissimo, con la radio accesa. Quando va a riposare il pomeriggio ha con sé delle bozze da correggere o un libro pieno di note. Vuole nella stessa giornata che andiamo al cinematografo, poi a un ricevimento, poi a teatro. Riesce a fare e anche a farmi fare nella stessa giornata un mondo di cose diverse, a incontrarsi con le persone più disparate. E se io son sola e tento di fare come lui, non approdo a nulla, perché là dove intendevo trattenermi mezz'ora, resto bloccata tutto il pomeriggio. O perché mi sperdo e non trovo le strade. O perché la persona più noiosa e che meno desideravo vedere mi trascina con sé nel luogo dove meno desideravo di andare. Se gli racconto come si è svolto un mio pomeriggio, lo trovo un pomeriggio tutto sbagliato e si diverte, mi canzona e s'arrabbia e dice che io, senza di lui, non sono buona a niente. Io non so amministrare il tempo, lui sa, gli piacciono i ricevimenti. Ci va vestito di chiaro quando tutti sono vestiti di scuro. L'idea di cambiarsi vestito per andare a un ricevimento non gli passa per la testa. Ci va magari col suo vecchio impermeabile, col suo cappello sbertucciato, un cappello di lana che ha comprato a Londra e che porta calato sugli occhi. Sta là solo mezz'ora, gli piace per una mezz'ora chiacchierare con un bicchiere in mano. Mangia molti pasticcini, io quasi nessuno. Perché vedendolo lui mangiare tanto, penso che io almeno per educazione e riserbo devo astenermi dal mangiare. Dopo mezz'ora, quando comincio un poco ad ambientarmi e a star bene, si fa impaziente e mi trascina via. Io non so ballare, e lui sa. Non so scrivere a macchina, e lui sa. Non so guidare l'automobile. Se gli propongo di prendere anch'io la patente, non vuole. Dice che tanto non ci riuscirei mai. Credo che gli piaccia che io dipenda per tanti aspetti da lui. Io non so cantare e lui sa, è un baritono. Se avesse studiato musica, sarebbe forse diventato un direttore d'orchestra. Quando ascolta i dischi, dirige l'orchestra con una matita. Intanto scrive a macchina e risponde al telefono. È un uomo che riesce a fare nello stesso momento molte cose. Fa il professore e credo che lo faccia bene. Avrebbe potuto fare molti mestieri, ma non rimpiange nessuno dei mestieri che non ha fatto. Io non avrei potuto fare che un mestiere solo. Il mestiere che ho scelto e che faccio, quasi dall'infanzia. Neanch'io non rimpiango nessuno dei mestieri che non ho fatto. Ma io tanto non avrei saputo farne nessuno. Io scrivo dei racconti e ho lavorato molti anni in una casa editrice. Non lavoravo male, ma neanche bene. Tuttavia mi rendevo conto che forse non avrei saputo lavorare in nessun altro luogo. Avevo con i miei compagni di lavoro e col mio padrone rapporti d'amicizia. Sentivo che se non avessi avuto intorno a me questi rapporti d'amicizia, mi sarei spenta e non avrei saputo lavorare più. Ho coltivato a lungo in me l'idea di poter lavorare un giorno a sceneggiature per il cinema. Tuttavia non ne ho mai avuto l'occasione e non ho saputo cercarla. Ora ho perso la speranza di lavorare mai a sceneggiature. Lui ha lavorato a sceneggiature un tempo, quando era più giovane. Ha lavorato lui pure in una casa editrice, ha scritto racconti, ha fatto tutte le cose che ho fatto io, più molte altre. Rifà bene il verso alla gente, e soprattutto a una vecchia contessa. Forse riusciva a fare anche l'attore. Una volta a Londra ha cantato in un teatro, era Giobbe. Aveva dovuto noleggiare un frac, ed era là, in frac, davanti a una specie di leggio, e cantava. Cantava le parole di Giobbe, qualcosa tra la dizione e il canto. Io in un palco morivo di paura. Avevo paura che si impapinasse o che gli cadessero i calzoni del frac. Era circondato da uomini in frac e di signore vestite da sera, che erano gli angeli e i diavoli e gli altri personaggi di Giobbe. È stato un grande successo e gli hanno detto che era molto bravo. Se io avessi amato la musica, l'avrei amata con passione. Invece non la capisco. E ai concerti, dove a volte lui mi costringe a seguirlo, mi distraggo e penso ai casi miei, oppure cado in un profondo sonno. Mi piace cantare. Non so cantare, sono stonatissima. Canto tuttavia qualche volta, pianissimo, quando sono sola. Che sono così stonata, lo so perché me l'hanno detto gli altri. Deve essere la mia voce come il miagolare d'un gatto. Ma io da me non m'accorgo di nulla e provo nel cantare un vivo piacere. Lui, se mi sente, mi rifà il verso. Dice che il mio cantare è qualcosa fuori della musica, qualcosa di inventato da me. Mugolavo da bambina dei motivi di musica inventati da me. Era una lunga melopea lamentosa che mi faceva venire le lacrime agli occhi. Di non capire la pittura, le arti figurative, non me ne importa. Ma soffro di non amare la musica, perché mi sembra che il mio spirito soffra per la privazione di questo amore. Pure non c'è niente da fare. Non capirò mai la musica, non l'amerò mai. Se a volte sento una musica che mi piace, non so ricordarla. E allora come potrei amare una cosa che non so ricordare? Ricordo di una canzone le parole. Posso ripetere all'infinito le parole che amo. Ripeto anche il motivo che le accompagna al mio modo, nel mio miagolare, e provo così, miagolando, una sorta di felicità. Mi sembra di seguire nello scrivere una cadenza, un metro musicale. Forse la musica era vicinissima al mio universo e il mio universo, chissà perché, non l'ha accolta. Tutto il giorno si sente musica in casa nostra. Lui tiene tutto il giorno la radio accesa o fa andare dei dischi. Io protesto ogni tanto, chiedo un po' di silenzio per poter lavorare, ma lui dice che una musica tanto bella è certo salubre per ogni lavoro. Si è comprato un numero di dischi incredibile. Possiede, dice, una delle più belle discoteche del mondo. Al mattino, in accappatoio, stillante dell'acqua del bagno, accende la radio, si siede alla macchina da scrivere e comincia la sua laboriosa, tempestosa e rumorosa giornata. È in tutto sovrabbondante. Riempie la vasca del bagno fino a farla straripare. Riempie la teiera e la tazza del tè fino a farla strabordare. Ha un numero stragrande di camicie e cravatte. Raramente, invece, compra scarpe. Era, dice sua madre, da bambino, un modello di ordine e precisione. E pare che una volta che doveva attraversare certi rigagnoli pieni di fango in campagna in un giorno di pioggia, con stivaletti bianchi e veste bianca, era alla fine della passeggiata immacolato e senza una chiazza di fango sull'abito e gli stivaletti. Ora non c'è in lui traccia di quell'antico immacolato bambino. I suoi vestiti sono sempre pieni di macchie. È diventato disordinatissimo. Conserva però con puntiglio tutte le ricevute del gas. Trovo nei cassetti remote ricevute del gas di alloggi lasciati da tempo e che lui si rifiuta di buttar via. Trovo anche dei sigari toscani vecchissimi e incartapecoriti e bocchini di legno di ciliegio. Io fumo sigarette stop, lunghe, senza filtro. Lui a volte quei sigari toscani. Io sono disordinatissima. Sono però diventata invecchiando nostalgica dell'ordine e riordino a volte con grande zelo gli armadi. Mi ricordo, credo, di mia madre. Riordino gli armadi della biancheria, delle coperte e ricopro ogni cassetto nell'estate di teli candidi. Raramente riordino le mie carte perché mia madre, non usando scrivere, non aveva carte. Il mio ordine e il mio disordine sono pieni di rammarico, di rimorsi, di sentimenti complessi. Lui, il suo disordine, è trionfante. Ha deciso che per una persona come lui, che studia, avere il tavolo in disordine è legittimo e giusto. Lui non migliora in me l'irresolutezza, l'incertezza in ogni azione, il senso di colpa. Usa ridere e canzonarmi per ogni mia minima azione. Se vado a fare la spesa al mercato, lui a volte, non visto, mi segue e mi spia. Mi canzona poi per il modo come ho fatto la spesa, per il modo come ho soppesato gli aranci nella mano, scegliendone accuratamente, lui dice, i peggiori di tutto il mercato. Mi schernisce perché ho impiegato un'ora a fare la spesa. Ho comprato a un banco le cipolle, a un banco i sedani, a un altro la frutta. A volte fa lui la spesa per dimostrarmi come si può fare velocemente. Compra tutto a un unico banco, senza nessuna incertezza, e riesce a farsi mandare il cesto a casa. Non compra sedani, perché non li può soffrire. Così, io più che mai ho il dubbio di sbagliare in ogni cosa che faccio. Ma se una volta scopro che è lui a sbagliare, glielo ripeto fino all'esasperazione, perché io sono a volte noiosissima. Le sue furie sono improvvise e traboccano come spuma di birra. Le mie furie sono anche improvvise, ma le sue svaporano subito. E le mie invece lasciano uno strascico lamentoso e insistente, noiosissimo credo, una specie di amaro miagolio. Piango a volte nel turbine delle sue furie e il mio pianto, invece di impietosirlo e placarlo, lo fa arrabbiare ancora di più. Dice che il mio pianto è tutta una commedia e forse è vero, perché io sono, in mezzo alle mie lacrime e alla sua furia, pienamente tranquilla. Sui miei dolori reali non piango mai. Usavo scagliare un tempo nelle mie furie piatti e stoviglie per terra, ma adesso non più. Forse perché sono invecchiata e le mie furie sono meno violente. E poi non oserei ora toccare i nostri piatti, a cui sono affezionata e che abbiamo comprato a Londra un giorno a Portobello Road. Il prezzo di questi piatti e di molte altre cose che abbiamo comprato ha subito nella sua memoria un forte ribasso, perché gli piace pensare d'aver speso poco e d'aver fatto un buon affare. Io so il prezzo di quel servizio di piatti ed erano 16 sterline, ma lui dice 12. Così per il quadro di Relire che sta nella nostra stanza da pranzo, un quadro che lui ha comprato pure a Portobello e che ha pulito con cipolle e patate e dice ora di averlo pagato una cifra che io ricordo molto più grande. Ha comprato anni fa allo Standard 12 scendiletti. Li ha comprati perché costavano poco e gli sembrava di doverne fare provvista. Li ha comprati per polemica, trovando che io non ero buona di comprare nulla per la casa. Questi scendiletti di stuoia color vinaccia sono diventati in poco tempo repellenti. Sono diventati di una rigidità cadaverica e io li odiavo appesi al filo di ferro del balcone di cucina. Usavo rinfacciarglieli come esempio di una cattiva spesa, ma lui diceva che erano costati poco, pochissimo, quasi nulla. Ci è voluto del tempo prima che riuscissi a buttarli via, perché erano così tanti e perché al momento di buttarli mi veniva il dubbio che potessero servire da stracci. Abbiamo, lui e io, una certa difficoltà a buttar via le cose. In me deve essere una forma ebraica di conservazione e il frutto della mia grande irresolutezza. In lui deve essere una difesa dalla sua mancanza di parsimonia e dalla sua impulsività. Lui usa comprare in grande quantità bicarbonato e aspirina. È qualche volta malato di suoi misteriosi malesseri. Non sa spiegare che cosa si sente. Se ne sta a letto per un giorno, tutto ravviluppato nelle lenzuola. Non si vede che la sua barba e la punta del suo naso rosso. Prende allora bicarbonato e aspirina in dosi da cavallo e dice che io non lo posso capire perché io sto sempre bene. Sono come quei frattacchioni robusti che si espongono senza pericolo al vento e alle intemperie. E lui è invece fine e delicato, sofferente di malattie misteriose. Poi la sera è guarito e va in cucina a cuocersi le tagliatelle. Era da ragazzo bello, magro, esile. Non aveva allora la barba, ma lunghi e morbidi baffi. E rassomigliava all'attore Robert Donat. Era così quasi 20 anni fa quando l'ho conosciuto e portava a ricordo certi camiciotti scozzesi di flanella eleganti. Mi ha accompagnata, ricordo, una sera alla pensione dove allora abitavo. Abbiamo camminato insieme per Via Nazionale. Io mi sentivo già molto vecchia, carica di esperienze ed errori, e lui mi sembrava un ragazzo, lontano da me 1000 secoli. Cosa ci siamo detti quella sera per Via Nazionale non lo so ricordare. Niente di importante, suppongo. Era lontana da me 1000 secoli l'idea che dovessimo diventare un giorno marito e moglie. Poi ci siamo persi di vista e quando ci siamo di nuovo incontrati non rassomigliava più a Robert Donat, ma piuttosto a Balzac. Quando ci siamo di nuovo incontrati aveva sempre quei camiciotti scozzesi, ma ora sembravano addosso a lui indumenti per una spedizione polare. Aveva ora la barba e in testa lo sbertucciato cappelluccio di lana e tutto in lui faceva pensare a una prossima partenza per il Polo Nord. Perché, pur avendo sempre tanto caldo, sovente usa vestirsi come se fosse circondato di neve, di ghiaccio e di orsi bianchi. O anche invece si veste come un piantatore di caffè nel Brasile, ma sempre si veste diverso da tutta l'altra gente. Se gli ricordo quell'antica nostra passeggiata per Via Nazionale, dice di ricordare, ma io so che mente non ricorda nulla. E io a volte mi chiedo se eravamo noi, quelle due persone, quasi 20 anni fa per Via Nazionale. Due persone che hanno conversato così gentilmente, urbanamente, nel sole che tramontava. Che hanno parlato forse un po' di tutto e di nulla. Due amabili conversatori, due giovani intellettuali a passeggio. Così giovani, così educati, così distratti. Così disposti a dare l'uno dell'altra un giudizio distrattamente benevolo. Così disposti a congedarsi l'uno dall'altra per sempre, quel tramonto, a quell'angolo di strada.